Ho il cuore che mi vola e sentiti leggera. Ho colpito a duro muso la vita e lo faccio da una vita intera. Non mi sento mai adatto a questi contesti indifferenti. Rido, guardo i miei difetti come fossero perfetti. Avessi gli occhi di mio padre, proverei a ragionare, ma sono nato con la voglia di strafare e col bisogno di volare. Dicesti chiudi gli occhi, non pensarci, ma quelli come me chiudono gli occhi solo per allontanarsi. Allontanarsi da che cosa? Che qui è sempre la stessa storia. Ti vien voglia di cambiare e cambia chi non c'è più ora. Ricordo notti in un parcheggio, birre vuote sul cruscotto. Parlavamo sì, ma senza aver mai pagato un conto. Noi siamo quelli senza scusa, col passato in fiamme, quelli che parlano con tutti, ma non è niente di importante. Che le cose belle stanno dentro e meritano stelle. Siamo tutti giusi, cambia soltanto dentro a quale pelle. Potrei cantare per 100 anni e dire le stesse cose. E non è monotonia, è il mio rifugio personale. Non chiedermi niente, questa sera si sta bene. Porta un po' dei tuoi ricordi e dopo mescolali insieme. Anche di lei, ma senza esagerare. Che il cielo lì ci osserva e noi formiche in pasta, un mondo cane. Poi ti imbastano due occhi azzurri e ritorna tutto. Ritorna il cuore al suo posto dove c'è calore. Avevo voglia di cantare, ma solo ciò che avevo dentro. Sento che tanto più mi sento vuoto e tanto più mi riempio dentro. Ricordo l'interrazza, quinto piano sopra tutti. Passare notti dentro stanze in cui non vedi bene tutti. E con la mano, e con la mano, e con la mano sposti il fumo che ti bruci gli occhi. Sentirsi ultimi ma sorridere che è passato pure oggi. Mamma, mamma, mamma, t'ho deluso tante volte, non è vittimismo. T'ho vista piangere e maledico il giorno in cui non m'hai più visto. Quando tornavi dal lavoro e c'era quel silenzio e i professori che ti urlavano, suo figlio è marcio dentro. Ma che ne sanno loro? Che ne sanno tutti? Io la mia vita l'ho vissuta solo attraverso i miei gusti e pagherò un conto tra 10 anni o forse anche domani. Ma vince chi si sveglia, vive, muore e spera sempre dentro le sue mani.